scivolando, un gioco dietro l'altro, in questo paesaggio tutto ghiacciato. Un po' fame gli è venuta, bisogna escogitare al più presto qualche cosa. Un buco nel ghiaccio, ecco presto fatto. Ora un po' di pazienza, pesciolini alla mia mensa. Orsetto bianco felice, nella baia su ghiacci e banchine. Corri scivolando, un gioco dietro l'altro, in questo paesaggio tutto ghiacciato. Scivolando, un gioco dietro l'altro, in questo paesaggio tutto ghiacciato. Orsetto bianco felice.